Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Terza parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni e parto subito con le date dei concerti che potrete andare a vedere gratuitamente grazie ad Eclettica, visto che queste date si stanno avvicinando. Ok Go a Rainbow di Milano il 3 di ottobre, Final Fantasy allo Spazio 211 di Torino il 4 e al Jail di Legnano il 6, Forward Russia il 4 al Rainbow, il 6 al Covo di Bologna e il 7 allo Spazio 211. Come fare per vincere? Scrivere a giulio@radiorockfm.com. Voglio morire. Questo è quello che ho pensato quando sono partito, quando ho preso l'aereo, appena 2 anni fa. Volevo farla finita. Sì, un semplice incidente era la cosa migliore. Perché nessuno avesse colpe, perché io non dovessi vergognarmene, perché nessuno cercasse un perché. Mi ricordo che l'aereo ha ballato per tutto il viaggio. C'era un temporale, tutti erano tesi e spaventati. Io no. Io ero l'unico a sorridere. Quando stai male, quando vedi nero, quando non hai futuro, quando non hai niente da perdere, quando ogni istante è un peso, immenso, insostenibile, e sbuffi in continuazione. E vorresti in tutti i modi liberartene, in qualsiasi modo. Questo era l'incipit di Ho voglia di te, di Federico Moccia. Can't be far. sono israeliani, non possono non far venire in mente Gogol, Bordello. Sono prodotti da Chantel. Negli anni scorsi nelle playlist di Eclettica lo troverete, chissà mai che Chantel sia oggetto di profumo di Eclettica. Si chiamano Boom Pam ed incidono per l'SA Recordings. Magic Surf Guitars from Tel Aviv, kicked by tuba and drums. Questo è un estratto dalla autodefinizione dei Boom Bap. Ci siamo ascoltati la loro canzone da matrimonio, Wedding Song. Invece in apertura di Eclettica, uno di quei dischi, ho scelto anche come pillola lo stesso brano che ho usato come apertura della terza parte di Eclettica, uno di quei dischi che è un piacere vero ascoltare, anche quando hai una pila di 30-40 dischi al giorno da dover sentire per decidere che cosa mandare in onda. Capita di rado, ma quando capita, e proprio perché capita di rado, è un vero piacere per le orecchie, anzi un vero godimento. Incidono per un'etichetta francese, Talitres Records. Loro invece sono inglesi, si chiamano I Like Trains, tutto attaccato con uno strano gioco di maiuscole e minuscole, e il brano che ha aperto Eclettica di questa terza parte aveva per titolo Terra Nova. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, Giulio Caperdoni che vi lascia con una pillola, dopo aver parlato di una pillola di questa settimana, di una pillola di settimana scorsa, un estratto da Love and Other Planets, il disco uscito nel pieno del mese di agosto per la Domino da parte di Adem. Questa è Launch Yourself. I've been trying, fixing the problem. You press the button to launch yourself while I was outside. I heard a spark ignite, I saw a ball of light, I watched could be no mistake. My hope and faith misplaced. I saw you lifting off. You pressed the button to launch yourself. Launch essere spagnolo, metti il cappello. Caludo. Pensimonios? No. Schifiltosos, no con gusta niente. ¿Ustedes son españoles? Cómonos, tutto duos. Somos españolos puros, tutto duos. ¿De dónde? Yo de Madrid, nativos, porque posso uno que gira parecchios de tutte le parti. ¿Y usted? Yo, de dove sei? Yo de Madrid, digo. Ugualos, non conosco Ugualos, è un piccolissimo paesino vicino a Ugualos, difficilissimo trovarlos nella cartina, è provincia di Granada. Piccolo, c'è una casa. Ah, che si dice Ugualos? Si dice Ugualos. Che si dice? Niente, si dice. Olé. ¿Hace mucho que usted está viajando en España? Va, Madrid se dice este... No. Hace mucho que ustedes están viajando por la España. Ah, excusa, se habló embrollados. Porque miseria, esta volta, señor Capito, nientes. Signorina, no siamo italiani. un duo formato da un musicista rock statunitense e un musicista elettronico tedesco, Requiems der Natur 2002-2004, il titolo dell'album, uscito ad agosto per la TP Records. Il nome che hanno dato al loro progetto è Cloudland Canyon e Holy Canyon è invece il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati in Eclettica. Ora rimaniamo negli Stati Uniti con un artista che proviene da Nashville, da dove proveniva sua madre, da dove proveniva suo nonno, tutti musicisti che hanno suonato, cantato al Grand Ole Opry. Quindi lei nasce in questo Humus, Don't Let Stars Keep Us Tangled Up, il disco uscito in quest'estate per la Ever, che ricordo essere parte del gruppo K7, è già passato un altro artista in settimana, non mi ricordo chi in questo momento, si chiama Courtney Tidwell, e nel disco ci sono diverse collaborazioni sparse con membri dei Lamb Chop, e noi ci ascoltiamo Society, dove proprio compare alla voce Kurt Wagner. Lentamente, minuto dopo minuto, ci avviciniamo anche alla fine della terza parte di Eclettica di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Terza parte che si chiude con Cowboy, il brano che ci sta facendo conoscere i Cathead, estratto dall'album Ricochet. Let me out. Pain drips on. are you to me? Am I gonna be good to myself? Would you be this good to me? Eclettica, fine della terza parte.